le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trovo di essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Ma la vita cadiste la trama e corazón me tu porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora. Liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora. E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 2 minuti primi, quasi 3, e oggi è mercoledì 29 di aprile e buongiorno, buongiorno e buona libertà a tutti e tutte. Questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che viene onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Dunque, quest'oggi adesso cominciamo la trasmissione, però probabilmente avremo tra un po' un'interruzione perché c'è a Roma, ci sono a Roma una delegazione, una carovana delle madri dei 43 ragazzi e ragazze messicane scomparse, si va per dire, cioè scomparse, sequestrate o forse uccise, speriamo di no, insomma in un'aggressione fatta, era una marcia in difesa della scuola, di studenti e studentesse, ed è stata attaccata pesantemente da alcune bande criminali che però pare abbastanza certamente sono in combutta con lo Stato messicano, con le istituzioni messicane. E questo legame tra grande malavita organizzata e Stato messicano, istituzioni messicane, è abbastanza ormai una realtà conosciuta da tutti e poco, e quindi c'è poco da discutere. Il problema è che appunto questa presenza qui, un po' in tutta Europa, in giro in Europa, per far conoscere questa vergogna e esercitare almeno una pressione di carattere informativo, così di opinione pubblica nei confronti delle istituzioni e lo Stato messicano, perché almeno faccia luce su questo e tanti altri gravi crimini. Bene, quindi quando siccome stanno facendo una conferenza alla Sapienza qui all'università, appena ci chiameranno le manderemo in diretta, quindi potremo interrompere la trasmissione. Intanto iniziamo la nostra e tra un attimo, dopo un momento di musica. What they want. E allora, volevamo iniziare, iniziamo subito da questo argomento, un argomento che compare sulla relazione annuale, il rapporto annuale che la Direzione Nazionale Antimafia propone appunto al Parlamento italiano, in cui ci stanno tutte le attività svolte dalla Direzione Nazionale Antimafia, ci stanno tutte le, diciamo, come dire, fanno il punto un po' sulla realtà dell'espansione della mafia, i colpi subiti e l'espansione avuta, insomma tutto il quadro generale, e danno anche dei suggerimenti perché il Parlamento possa operare a livello ovviamente legislativo per contrastare l'espansione della mafia. Ecco, sulla, appunto, l'ultimo, quello fatto di quest'anno, di pochi giorni fa, sì, un mesetto fa circa, la un mese e mezzo fa è comparso, e però appunto è molto lungo, tantissime, il rapporto annuale è riferito al 2014. C'è un capitolo molto interessante che interessa, non è che diciamo, per quanto riguarda le grosse questioni antimafia, non abbiamo la possibilità di entrare nel merito, ma non era questo appunto che ci riguarda, anche perché è molto tecnica, dettagliata. C'è un argomento, un capitolo molto interessante sul fatto della delle sostanze stupefacenti leggere, delle droghe leggere, praticamente la marijuana, hashish, queste cose qua. Dunque la reazione dell'antimafia dice che intanto porta dei dati. Allora dice che in base quello che il quadro che hanno fatto le forze di polizia nel 2014, tenendo conto dei sequestri di quantità di droghe leggere, riferito sempre alla marijuana, fatte durante l'anno, quindi calcolano i sequestri fatti, e quindi che è una percentuale della quantità che è entrata in questo paese e che è stata smerciata in questo paese, e il dato che viene fuori è che da 2 a 3 milioni di chili l'anno negli ultimi anni sono entrati in questo paese. Quindi praticamente calcolato in dosi sono circa 200 dosi l'anno per persona. Quindi calcolato nelle persone, sono stati calcolati tutti, però i vecchi e i bambini, cioè nei quasi 60 milioni di persone, dividendo questi 3 milioni di chilogrammi di hashish l'anno entrati in questo paese, secondo i calcoli delle forze di polizia, divise per la quantità con cui ci si fa uno spinello, droga, sono circa 200 dosi l'anno per persona, mettendo insieme appunto anche i bambini e i vecchi che probabilmente non le usano. Quello che viene fuori, la diffusione è, quindi ovviamente essendo questa la quantità, probabilmente la diffusione è molto estesa. Il ragionamento che si fa sulle quantità, perché 200 dosi l'anno per ciascuna persona, per ciascun cittadino italiano, ma anche quelli che stanno da 0 a 12 a 15 anni, è chiaro, e anche per le persone molto anziane, è chiaro che la diffusione è molto vasta. Addirittura confrontata con la diffusione dei superalcolici, stanno o allo stesso livello o addirittura è superiore quella della marijuana rispetto all'alcol, e pari a quella del tabacco. Tabacco, quello che vendono alle tabaccherie, su cui lo Stato ci prende una bella tassa. Allora, questo è un ragionamento che hanno fatto la Direzione Nazionale Antimafia. Dicono: a questo punto, che senso ha che si sprecano energie, soldi e appunto forze di polizia per andare a contrastare un consumo che è talmente diffuso, che è quindi maggioritario? È sicuramente maggioritaria, di gran lunga, la quantità di persone che fanno uso, come appunto l'alcol o il tabacco, che fanno uso di queste sostanze. Sarebbe opportuno, dicono loro, risparmiare soldi ed energie e dirottarli invece per le attività serie antimafia. Attenzione, che chi parla non sono i soliti antiproibizionisti o come no, questa è la Direzione Nazionale Antimafia. Anche perché dice che appunto la proibizione delle droghe leggere chiaramente è un discreto aiuto alle grandi associazioni mafiose, perché poi alla fine i soldi non sono loro i piccoli spacciatori, ma sono loro i grandi trasportatori di queste sostanze. E quindi propongono una cosa molto semplice: di depenalizzare l'uso delle sostanze, perché così si risparmierebbe soldi, perché è chiaro che l'attività investigativa, gli arresti eccetera per la lotta contro le sostanze stupefacenti è costosa, si risparmierebbe un sacco di energie delle forze di polizia da dirottare verso il contrasto dell'attività veramente mafiosa, e poi e sostanzialmente si andrebbe incontro a quella che è un consumo di come dire un'abitudine di massa. Quando una cosa diventa quando qualunque abitudine viene fatta dalla gran parte, dalla grande maggioranza dei cittadini di un paese, è chiaro che quella cosa diventa di per sé legale. Questi sono proprio i principi del diritto, ma molto antichi, addirittura si rifà perfino al diritto romano questa cosa qui, per non parlare che poi l'ideologia liberale l'ha assunta proprio come principio. Quando un comportamento è massificato, quando si presume che sia la gran parte dei cittadini che mettono in atto quel comportamento, va ritenuto legale, e quindi cambiate le leggi in merito, perché altrimenti si verifica che le istituzioni governative, oppure quelle appunto deputate a legiferare, come in questo caso il Parlamento, sia in contrasto con la gran parte della popolazione, cosa che non fa parte del sistema democratico, ovviamente. E questo è un ragionamento abbastanza semplice. Insomma, questi sono poiché viene, questo è un ragionamento che hanno fatto tante persone dell'area antiproibizionista, chi l'ha calcata in un modo, chi l'ha calcata in un altro, è il ragionamento più diffuso, molto diffuso in questo paese. Però che venga fatto da un'istituzione importante come la Direzione Nazionale Antimafia, tra l'altro fatta di magistrati, di procuratori, di diciamo non persone abituate a una visione libertaria del mondo, ma abbastanza, cioè quelli che fanno inchieste e che fanno la repressione, e insomma è abbastanza importante capire. Ormai viene da troppi tempi, anche negli Stati Uniti d'America, sapete, il proibizionismo sempre delle droghe leggere è stato rotto da una sentenza della Corte Suprema. Anche lì la Corte Suprema ha detto: cioè, state facendo i ridicoli, ha detto a tutti gli stati, perché lì la legge, diciamo, la possibilità di permettere la diffusione, la liberalizzazione della marijuana oppure il proibizionismo dipende dalle leggi di ogni singolo stato non federali. Dopo questa sentenza, che era più che altro un invito della Corte Suprema, gran parte degli stati hanno liberalizzato. In qualche caso hanno legalizzato, in altri casi hanno liberalizzato. Sapete la differenza tra liberalizzazione e legalizzazione? C'è una certa differenza. Comunque hanno tolto la proibizione della marijuana e continuamente ogni tanto uno stato come il Colorado, l'Alaska eccetera propongono appunto di liberalizzare o di legalizzare la marijuana. Il ragionamento era abbastanza simile a quello della Corte Suprema statunitense. La cosa strana è che un ragionamento che talmente diffuso e talmente, come dire, permeato di buonsenso, che entra pure nel ragionamento di magistrati che non è che sono appunto non fanno parte del mondo antiproibizionista, non vengono alle manifestazioni, non frequentano i centri sociali, cioè, quindi aver sfondato quel muro che è costituito da questi personaggi, tra l'altro, che provengono da una cultura diversa dalla nostra, ma che bene, non spaventa nessuno che sia una cultura diversa, vuol dire che è talmente pieno di buonsenso che comincia a essere problematico come invece persone molto più giovani e che probabilmente molto più perché provengono da ambienti anche più vicini a noi, come per esempio i parlamentari, no? Di questo paese, che è l'organo supremo di decisione, che è quello deputato a fare le leggi, abrogarle o farne di nuove. Bene, e i parlamentari italiani hanno un approccio a questo problema molto più reazionario, molto più arretrato, molto più vecchio di questi signori insomma hanno una certa età, ovviamente a livello d'età sono molto più anziani della media dei parlamentari italiani, hanno e che in buon senso gli ha fatto dire: ma guarda, smettetela di fare queste buffonate, non è così i termini, hanno usato termini eleganti, di fare le cretinate di proibire una sostanza che è talmente diffusa. Il fatto di 200 spinelli a testa significa che a testa, come ho detto, mettendo anziani e bambini e nascituri, e quindi è un po' ridicola tenere questa, e soprattutto tenere in piedi un'attività antiproibizionista che costa soldi, riempie le carceri, dirotta gran parte delle forze di polizia che allora interessa per combattere il grande crimine, la delinquenza organizzata e così via, viene dirottato per andare così a perdere tempo a cercare appunto chi si fa uno spinello, eccetera. 200 spinelli l'anno in media ogni cittadino italiano, questa è la percentuale di consumo di marijuana, quindi chiaramente se leviamo i bambini e le persone anziane o malate probabilmente siamo intorno ai perlomeno 300 spinelli in media, insomma, quindi è come dire chi si mette le scarpe, come se un Parlamento facesse una legge è vietato portare le scarpe, poiché la gran parte, la grandissima parte dei cittadini di un paese porta le scarpe, sarebbe una cretinata a dire poco. Ecco, il meccanismo è questo. Ora bisogna far sì che, è chiaro che è saltato tutto negli ultimi tempi, perfino i principi che io non ho mai condiviso, e noi quest'area qui non condivide i principi liberali, perché servivano a mantenere in piedi un ordine sociale, quello attuale, in cui ci sono i ricchi, i poveri, i potenti, gli sfruttatori e gli sfruttati. Quindi non ci piace quest'ordine, però perlomeno aveva dei principi, pur mantenendo appunto ricchi e poveri, disuguaglianze sociali enorme, mantenendo in piedi i proprietari senza niente, gli sfruttati e gli sfruttatori, tuttavia aveva dei principi che guidavano, per cui non faceva aberrazioni spaventose. Ecco, negli ultimi anni, col predominio dei mass media, è caduto anche questo criterio in cui andava tutto male per gli ultimi del mondo, per gli sfruttati, per i lavoratori, per i salariati, però c'erano dei criteri che, per esempio quello che quando un comportamento era assai diffuso era un obbligo del Parlamento cambiare le leggi in merito, perché è un principio basilare, l'ABC di chi usa la parola democrazia liberale. E perché altrimenti non è dittatura, ovviamente, no? Se le istituzioni fanno il contrario di quello che la maggioranza delle persone vuole, è chiaro che non so più democrazia. È ovvio che poi noi abbiamo sempre criticato questo sistema, perché sul piano dei rapporti economici, pur essendoci la maggioranza delle persone che sono appunto i lavoratori salariali, i disoccupati, i precari eccetera, sono questi la gran parte della popolazione contraria al sistema di proprietà in cui ci sono i padroni che hanno in mano i mezzi di produzione e utilizzano la forza lavoro dei salariati sfruttandoli. Questa cosa chiaramente non è mai stata cambiata e non è compito del sistema liberale cambiarla, perché la vuol mantenere in piedi. Quel principio di dire che se un comportamento è molto diffuso ne va tenuto conto sul piano legislativo da parte del legislatore, ossia del Parlamento, va applicato per tutte le altre questioni che non mettono in discussione l'ordine produttivo, l'ordine capitalistico di questo paese, di questi paesi. Il sistema liberale è nato per dare un'organizzazione permanente, perlomeno nei loro sogni era permanente, del sistema capitalistico, perché all'inizio, non per fare la storia, sarebbe anche interessante, all'inizio il sistema proprietario nasce dai grandi rapinatori. La delinquenza organizzata del secondo dei vari paesi, intorno al 500-600, grandi truffatori, rapinatori, ma bande organizzate, no? Oppure quelli che prestavano, che organizzavano bande di combattenti e si mettevano al soldo di questo o quel signore e quindi si facevano pagare tanto. Cioè chiunque accumulava soldi con tutte attività, a dir, non chiamiamole illegali illegali perché allora non c'era questa divisione, ma diciamo veramente abbastanza poco esaltanti, disumane, criminali eccetera, beh, tutti questi hanno costruito quel gruppo di potere monetario che ha formato poi la borghesia, che poi ha scalzato il sistema feudale precedente, che faceva schifo per tanti altri motivi, molti di più, però insomma manteneva quel tipo di sistema precedente, quello feudale, in cui non c'erano manco i diritti delle persone. La rivoluzione borghese fa invece questa unificazione dei diritti formali, non di quelli sostanziali, per cui dice ci sono dei punti che devono rimanere tali, ed è questo ordine basato sul fatto che ci sono i proprietari dei mezzi di produzione e chi non ha niente deve dare, vende la propria forza lavoro per due soldi, punto. Viene assunto quando ce n'ha bisogno il padrone, viene cacciato via quando il padrone non ce n'ha bisogno. Questa qui è la regola, questo è l'ordine. Tutto il resto, però, per tutto il resto ci deve essere un minimo di buonsenso legalitario, nel senso che appunto dicevano quando un comportamento è molto diffuso dalla popolazione bisogna tenerne conto, quando nessuno va condannato se non in merito a una legge messa su un codice, eccetera, c'è tutti quei meccanismi lì, no? Affermando che la uguaglianza delle persone di fronte alla legge rispetto alla violazione della legge stessa, rispetto al reato, insomma, questi principi qui informavano il sistema liberale che è nato intorno dal 700 all'800, si è plasmato in tutte le società, che manteneva però inalterata appunto, anzi che doveva riprodurre esattamente tale e quale il sistema capitalistico, quello basato sulla disuguaglianza economica e sociale e sul fatto che ci sono i proprietari e i senza proprietà. Però per tutto il resto appunto c'era un buon senso. In quest'ultimi, senza seguire tutto il percorso del Novecento, che è molto altalenante da questo punto di vista, in quest'ultimo periodo, periodo inteso nel secondo dopoguerra, dagli anni 60 in poi, è cambiata un po' l'ordine sociale, soprattutto i meccanismi della informazione e del senso, come dire, della quella che diventerà la volontà sociale, filtrata attraverso il meccanismo dei media. Con la ripresa dopo il disastro del dopoguerra, questo grande massacro, il consumismo sembrava proprio il, come dire, il paradiso terrestre per chi aveva sofferto anni e anni, chi 5 e chi 6, in un inferno tremendo. Il consumismo, cioè, c'è benessere per tutti, soldi per tutti, oggetti per tutti, eccetera, e le popolazioni sono buttate dentro questo grande, come dire, questa grande palude del consumismo, offrendo in cambio la stabilità del sistema, perlomeno chiedendo a ciascuno di star meglio, però senza mettere in discussione quel sistema, che pure è un sistema che ha prodotto quelle guerre, quei massacri eccetera, però si è chiuso un occhio, la gente aveva bisogno di stare un po' bene dopo quel massacro, comunque illudersi di poter star meglio, e quindi c'è stata questa grande pacificazione, diciamo, un po' in tutto il mondo, non in tutto il mondo proprio, ma in gran parte dei paesi industrializzati c'è stata questa pacificazione, e questo è stato la finzione che ha funzionato per parecchio, cioè molti hanno pensato che fosse possibile, pur rimanendo negli ultimi gradini sociali, una crescita, un miglioramento del proprio benessere graduale, via via, ti compri un frigorifero una volta, poi la lavatrice, poi la 600, il televisore, poi la casa e via via via, no? Questo miglioramento che non cambiava sostanzialmente, sempre nelle parti basse della società rimanevi, non arrivavi ai livelli dei ricchi, però era un miglioramento, e quindi hanno accettato, hanno, come dire, abbassato le braccia e hanno accettato questa utopia, era finta, perché in effetti dura qualche anno questo cosiddetto benessere, poi crolla perché ci sono le crisi, eccetera, cioè, lo stiamo vedendo in questi giorni. E questo meccanismo, no, dura dall'Ottocento, questo meccanismo sviluppo, poi crisi, sviluppo, crisi, e quindi quando c'è sviluppo c'è qualche soldo per tutti perché aumenta anche l'occupazione, quindi aumentano i salari, quando c'è crisi ci chiudono fabbriche, cioè aumenta la disoccupazione, quindi calano i salari. Poi c'è stato il Novecento che grazie alle grandi lotte ha portato anche il welfare, cioè lo stato sociale, cioè indennità di disoccupazione, cose eccetera, e poi hanno... invece poi anche quello è stato abbattuto. Beh, questo per dire, ecco, questo era il quadro, insomma, per dire che anche i meccanismi centrali della ideologia liberale, da quando i media hanno un grosso presenza nell'opinione pubblica, riescono a cambiare anche questo ordine del discorso, perché i media devono vendere, per vendere devono sempre parlare di emergenza, e quindi chiaramente diventano l'elemento centrale della come dire, della follia forcaiola. Walking down the street, you jump down in after all of the beat, and then I knew it was the end of all. We'll be right back. Allora, domanda che credo ciascuno di noi sorge: ne terrà conto il Parlamento, le istituzioni italiane, di questo così esortazione da parte della Direzione Nazionale Antimafia? Non lo sappiamo, lasciamo il punto interrogativo. Certo che il legislatore, ossia il Parlamento, i governi di questo paese, di questo periodo, siano particolarmente così animati di buon senso, di voler discutere seriamente dei provvedimenti da fare per così andare incontro a quelli che sono gli usi, i costumi che mutano, cambiano nel corso degli anni della popolazione, questo è un bel problema. Tra l'altro, per esempio, bisognerebbe ricordare, ci dovrebbero spiegare coloro che hanno riempito questo paese di leggi proibizioniste, come mai dall'antichità fino a meno di un secolo fa, fino agli anni 30-40, queste sostanze cosiddette leggere, marijuana e affini, era largamente diffusa, mai ha creato nessun problema a nessuna popolazione. Come mai in quegli anni viene proibita? E qui ci stanno tanti libri, centinaia, migliaia di libri, chi dice una cosa e dice un'altra, ma la gran parte sicuramente propongono la lettura, l'analisi, che il dare una mano alle grandi organizzazioni mafiose che proprio intorno a quel periodo, 20 anni, 20, 30, 40 del Novecento, si andavano formando, bene, per dargli una mano chiaramente molti governi hanno unti, diciamo, dai grandi produttori, hanno pensato bene di mettere sul terreno della illegalità queste sostanze, in modo che diventavano un grosso affare per le mafie internazionali, altrimenti ognuno sarebbe coltivato sul balcone o sul giardino la propria pianta, e quindi le mafie sarebbero state un po' a stecchetto. Ma per esempio qui in Italia la legge Fini-Giovannardi, se la leggete attentamente, ma anche basta vederne i risultati, che negli anni in cui è stata applicata ha prodotto, vi rendete subito conto da chi è stata fatta, cioè da chi è stata pensata, al di là della firma che hanno messo Fini e Giovannardi, o comunque per chi è stata fatta. Ha riempito le carceri italiane la Fini e Giovannardi, è stata poi dichiarata l'altro anno anche incostituzionale perché il passaggio parlamentare è stato imbrogliato in un sistema eccetera, ha riempito veramente le carceri italiane, perché tendeva a colpire soprattutto il piccolo spaccio, quello vicinale, quello che sta agli angoli delle strade, lasciando relativamente inalterato il grande, cioè la grande malavita organizzata, che è quella che ne trae fuori i miliardi da questo traffico. Il piccolo spacciatore al massimo ci tira fuori da campare, e questo è stato, e la Fini-Giovannardi è quello, non è che è un'altra cosa. È stata fatta perché quei partiti volevano così prendere due voti in più, dicendo così alle famiglie disperate, oppure che ne so, ai problemi del malessere, dicendo: noi mettiamo una legge di forte proibizione, in modo che i ragazzi e le ragazze smetteranno di usare e cambieranno la qualità della vita. Ovviamente non è una legge che fa cambiare il comportamento di alcune delle giovani generazioni, è tutt'altro, ma c'è questa cretinata che gira nel mondo, e quindi come dicevamo prima, da quando appunto i media hanno prodotto l'opinione pubblica non esiste, no? È l'insieme dei media che producono l'opinione pubblica, non è che c'è un'assemblea di quartieri popolari, cittadine che esprimono, e quindi quella potrebbe essere l'opinione della gran parte della gente. Per opinione pubblica si intende quello che scrivono i giornali sono scritti da una decina di giornalisti e giornaliste, e quindi perché dicono quello che il direttore vuole, il direttore fa scrivere quello che il proprietario del giornale gli dice di scrivere, e questo, insomma, 10 persone che sono l'opinione pubblica, non i milioni di cittadini di un paese, e quindi hanno cambiato un po' il settore. Il politico dice: l'opinione pubblica vuole questo, io ho paura di perdere un po' di voti nel momento elettorale, e quindi vado incontro all'opinione pubblica, non ai desideri della cittadinanza, ma a quello che l'opinione pubblica, quindi quella decina di giornali dicono. E poi quella, a forza di scrivere quelle cose, i giornali, diventa anche, e questo è il problema su cui che possiamo interrompere, quello che scrivono questa decina di testate, 15 testate, 20 testate giornalistiche, diventano a forza di martellare opinione veramente di gran parte delle persone. Perché c'è quel famoso detto che se una cosa, anche falsa, la ripeti talmente tanto, entra come verità rivelata. Questo è mai riscontrato dall'antichità, è così soprattutto nelle società massificate, moderne, urbane, e quindi purtroppo è questo. Allora la gente è convinta che facendo attività di proibizioni, per esempio sulle droghe leggere, il consumo di queste diminuiscono e i ragazzi e le ragazze cambiano stile di vita, cosa che non è vera, perché i paesi dove è libero il consumo di queste sostanze, più o meno il consumo è simile a quello dove è vietato, perché è un comportamento difficilmente gestibile, organizzabile. Va bene, volevamo passare a un altro problema molto importante che è comparso in questi giorni sui giornali, perché da qualche giorno, circa meno di un mese fa, è uscito un libro di Luigi Manconi. Sapete, Luigi Manconi, senatore della Repubblica Italiana, del Senato, da tempo fa parte del PD, lui viene da gruppi extraparlamentari, viene da Lotta Continua, era un dirigente di Lotta Continua, poi ha fatto il percorso in Democrazia Proletaria, eccetera eccetera, è entrato nel PC, poi è diventato PD, sempre come indipendente si è fatto leggere in questa cosa, e ha sempre curato questioni di carattere giudiziario, nel senso di cercare di contrastare con le azioni poche, perché non è che ha raccolto intorno a sé grandi quantità di parlamentari, ha cercato di frenare le ventate forcaiole che c'erano, ha cercato anche di dire qualche cosa a favore dei carcerati e delle carcerate, che non venissero trattate così male, insomma ha tentato di fare un'azione di interruzione della dilagante repressione che da qualche anno gira nel paese, soprattutto su che produce carcere a dismisura, che aveva portato la presenza nelle carceri italiane a un livello da record, un paio d'anni fa era arrivata a 70.000, poi con la critica e con la multa della Corte Europea sono un po' calati in la presenza nelle carceri, insomma. Però questo è Luigi Manconi, insomma, poi ne volete sapere di più, potete vedere da qualche altra parte. Comunque Luigi Manconi ha scritto un libro, è uscito qualche tempo fa, il mese scorso. Il libro ha un titolo molto ambizioso e molto interessante: Abolire il carcere. E chiaramente io non l'ho ancora letto, perché appunto è uscito da poco, non è nemmeno facile trovarlo. Comunque abolire il carcere, cioè una proposta di tutto interesse, che uno subito corre a leggerla, perché è ciò che si dovrebbe fare oggi, ma che appunto il meccanismo che diciamo prima, no? questo sistema forcaiolo che ha invaso la società, questo sistema dei media che stravolgono la realtà, ebbene tutto questo ci sta portando in un baratro spaventoso. E allora ha scritto questo libro, Abolire il carcere. Che cosa dice sostanzialmente? Si è avvalso del contributo di Stefano Anastasia, e Valentina Calderone e Federica Resta di Antigone, alla postfazione di Gustavo Zagrebeschi, e dice, affronta temi, da quanto qui c'è un articolo di Repubblica che ne parla di due giorni fa, dice: ai detenuti si chiede soprattutto una cosa, di non esistere. La modesta proposta, messa tra virgolette, di Luigi Manconi per abolire il sistema carcerario, 250 anni fa, mese più, mese meno, usciva un libro. Allora, 250 anni fa, che per la prima volta si proponeva di abolire la pena di morte, quello di Beccaria, dei delitti e delle pene, no? Se ne è parlato tanto, perché quest'anno ricorre il 250° anniversario dell'uscita di quel libro, e dichiarava, quello di Beccaria, aperta la crisi di un paradigma plurimillenario, quello della pena legale come illimitata vendetta. Il successo di Opinione fu vastissimo, parla del libro di Beccaria. E da allora cominciò un percorso che dura ancora, quello della progressiva affermazione di un principio, ossia l'indisponibilità della vita umana nel sistema delle pene. Cioè non tanto l'indisponibilità quanto la non... cioè non può esistere, vabbè, poi non è indisponibilità, ma è non accettazione dell'umano, della vita umana al sistema sanzionatorio vigente. Cioè la vita umana non può accettare una riduzione della libertà come sistema sanzionatorio, ne potrebbe accettare tanti altri ma non questo, perché come abbiamo detto tante volte è assurdo mettere sullo stesso piano, per esempio, se uno ruba una macchina e quindi toglie un oggetto di metallo a un'altra persona, o rompe una vetrina, quindi crea un danno economico a un negoziante, o fa cose di questo genere, e gli viene tolta la libertà, significa mettere sullo stesso piano un mucchio di ferro, un'automobile, un pezzo di vetro, la vetrina, con la libertà. Chiaramente è un bilancio assurdo, cioè come facciamo a considerare sullo stesso piano un pezzo di ferro o di vetro e la libertà, che tutti dicono è un bene supremo, però viene tolto con estrema facilità. Questa è una digressione che ho fatto io. Successiva, andiamo avanti. Però diceva comunque, lui qui dice soltanto l'articolo di Repubblica che è di Adriano Prosperi, che parla del libro di Manconi, dice l'indisponibilità della vita umana nel sistema delle pene. E quindi dice abolire il carcere di Luigi Manconi, che con Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, postfazione di Gustavo Zagrebeschi, spiega come il diritto di uccidere, apparentemente sconfitto, sempre 250 anni fa da Beccaria, abbia solo cambiato forma. Sopravvive più crudele nell'altra forma della pena, quello che Beccaria, sbagliando, riteneva più dolce, il carcere. E questa è importante, questa affermazione, perché in questi giorni, in questi mesi che c'è stato appunto il 250 anniversario del libro principale del Beccaria, dei delitti e delle pene, che chiedeva di abolire la pena di morte e i supplizi fisici, ma sostituirli con la galera, cioè con l'appropriazione della libertà da parte del sistema punitivo, è chiaro che è stato troppo esaltato, nessuno l'ha letto con attenzione, ma invece, come ho detto più volte, scritto più volte, in realtà è pesante. Non è che voglio dire che il Beccaria l'ha fatto perché pensava di creare una sofferenza ulteriore, ma è chiaro che dicendo togliete le pene corporali e mettete e appropriatevi del tempo delle persone, della vita delle persone, della libertà delle persone, pensava di fare qualcosa di meno violento. In realtà ha fatto il contrario, perché è molto più violento la limitazione di libertà che una mutilazione materiale. Comunque, infatti si dice sbagliando, si riteneva più dolce il carcere che non i supplizi. Il carcere oggi, continua l'articolo, è oggi agli antipodi del luogo di solitudine, penitenza e rigenerazione morale che fu nelle sue origini monachistiche. Ma in realtà il carcere, anche se ha preso dal sistema monacale tutti i termini, cella, refettorio, colloquio, eccetera, non nasce, l'ha mutuato dal sistema monachistico i termini e anche le strutture, a volte riciclate, conventi, per esempio Regina Celi era un convento, c'erano le mantellate che era un ordine monastico, la riciclate, ma non nasce per sviluppo del sistema monastico, nasce come accompagnamento del sistema di fabbrica, ha tutta un'altra origine, serviva a mantenere la fabbrica tale quale, perché in fabbrica non ci andava nessuno a lavorare, scappava la gente, e per riportarli dentro hanno creato la casa di lavoro che poi è diventata carcere. Però comunque è diventato un mondo parallelo il carcere, abitato da una umanità a cui si chiede semplicemente di non esistere. Come ha scritto Ernest von Solomon, il carcerato non può concepire come fuori dalla sua cella lo spazio possa avere estensioni e il tempo possa avere movimento. E anche Vittorio Foa ammise di aver provato nel suo lunghissimo periodo carcerario un progressivo svanire della volontà col decorso del tempo. E beh, sono tantissimi casi di gente che ha provato il carcere e che lo detesta. o lo odia. Il costo economico, è sbagliato a non odiare il carcere. Uno dice: ma l'odio è brutto. No, no, l'odio è una grande passione, è come l'amore, no? Se non si odiare le guerre, per esempio, è l'atto più alto di umanità, così come odiare il carcere, così come odiare la pena di morte, cioè odiare le brutture che l'umanità ha messo in piedi è un alto indice di amore. Non si può non odiare, chi non odia le guerre, cioè è un criminale in genere, no? Chi non, così chi non odia il carcere, insomma, non è una persona proprio a posto. Il costo economico del sistema carcerario è altissimo e in crescita. In Italia, dove è rimasto quasi l'unica forma di punizione, lo si tiene in vita per corteggiare lo spirito forcaiolo di una popolazione che si ritiene civile e accogliente, ma che ad ogni delitto chiede che il colpevole sia recluso e che si gettino via le chiavi. Eppure, come dimostrano i dati spesso inediti e sconvolgenti riportati dagli autori, chi viene punito col carcere nella maggior parte dei casi tornerà al delitto, mentre laddove si ricorre a pene diverse la recidiva crolla a percentuali minime. È un po' superficiale questo ragionamento, perché è qui dice appunto, fa quell'errore che diciamo all'inizio della trasmissione: lo spirito forcaiolo di una popolazione che si ritiene civile e accogliente, ma che ad ogni delitto chiede che il colpevole sia recluso e si gettino via le chiavi. Ma non lo chiede la gente, lo chiede l'opinione pubblica, nell'accezione che abbiamo detto prima, cioè il sistema dei media, dei mass media, che inculcano, intanto dicono questo, e il politico legge il giornale e dice: qui la gente vuole che mettiamo in galera la gente, ma non lo vuole la gente, non è che si è fatto un referendum tra le persone. Poi a forza di battere su quel chiodo, i mass media convincono, inculcano dentro il cervello della gente questa concezione forcaiola, ma non è proprio così, diciamo, è più dell'opinione pubblica, quindi dei mass media, che non delle persone, questa volontà forcaiola. E poi questo fatto della recidiva, anche qui bisogna essere un po' più precisi. È chiaro che lo stesso Manconi ha scritto e detto più volte che appunto i detenuti che escono a fine pena al 70% dei casi reiterano il reato una volta usciti, cioè fanno di nuovo il reato e quindi sono recidivi. Perché escono? Quelli che escono in misura alternativa, quindi attraverso un lavoro, invece la percentuale diminuisce molto. Ma questo è comprensibile, perché chi durante l'ultima parte della galera va in misura alternativa ha bisogno quindi di un lavoro, quindi qualcuno, gli amici, i parenti oppure altre strutture che c'è, gli hanno trovato un lavoro, quindi quello quando esce continua a lavorare, quindi può rimandare eventualmente l'affrontamento del problema del reperimento del reddito per vie stralegali, oppure può abbandonarlo. Il problema però, questa cosa non ci dice tanto che le pene alternative, le misure alternative sono migliori del carcere, ci dice soltanto che se uno ha un lavoro in gran parte dei casi non commette attività stralegale, quindi chi commette attività illegale è in gran parte forzato, come dice, obbligato dalle condizioni economiche e sociali che lo costringono. Questo è il ragionamento che va fatto, non che le misure alternative sono migliori perché più leggere e quindi non fanno reiterare il reato, ma perché appunto quelli che escono in misura alternativa hanno un lavoro, quindi un reddito, un salario. Il problema è che appunto se avessero tutti un salario, un reddito, qualcosa, un salario garantito, per esempio, come si diceva una volta, se avessero tutti un salario garantito, io non dico e non lo dice nessuno che scomparirebbe i reati, per carità, perché sono tante le motivazioni che spingono a trasgredire la legge e rimarranno, ma sicuramente i livelli si abbatterebbero di gran lunga, cioè sarebbero il 30, il 20% di quelli attuali, è ovvio. Quindi il ragionamento da fare è che una società che non garantisce la sopravvivenza delle persone produce l'attività estralegale. Qui conta di più la società che non il carcere, è importante saper trovare, quindi non è proprio esatto questo ragionamento che fa Adriano Prosperi intorno al libro di Manconi. E poi arriviamo alla finale, quindi parla del costo economico, ecco, così alto, della recidiva, e così raggiungiamo anche quel record negativo nel contesto europeo. L'affollamento carcerario è stato ridotto solo per l'intervento della Corte Europea, e questo è vero. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato l'Italia mettendogli questa multa salata, poi gli ha detto che gli avrebbe messo un'altra multa se non riduceva la popolazione carceraria, e hanno fatto quei quattro provvedimenti svuota carceri. per raggiungere i livelli attuali, che sono 54.000 presenze di fronte alle 70.000 del 2011. Quindi è chiaro, no? E quindi vabbè, capita così che quella che potrebbe sembrare una provocazione intellettuale risulti un'onesta e realistica soluzione. Noi questo libro proviamo a leggerlo e poi proveremo a leggerlo insieme per vedere. Cioè, io quello che ho visto così leggendo le recensioni, quella sui giornali, lui più che altro, Luigi Manconi, porta, sì, affronta il discorso, dice bisogna superare il carcere e va bene, e propone un sistema sanzionatorio diverso, cioè una serie di meccanismi sanzionatori, quindi di fronte alla violazione della legge sì la sanzione, ma che non sia la privazione della libertà, che quello è fa anche gli esempi, lavoro socialmente utile, cose eccetera eccetera. Lì il punto è che io credo bisognerebbe partire da questo punto di vista, partire per grossi elementi e andare via via in un dibattito che investa tutto il paese a scegliere, ossia prima partire dal fatto che è quello centrale, non si può togliere la libertà di fronte a una come punizione, come sanzione per la violazione della legge, non si può. La libertà è intoccabile, non esiste, è l'essenza della vita, è come togliere la vita, no? Libertà e vita sono l'una senza l'altra, è difficile. La vita senza libertà è difficile chiamarla vita, no? E quindi la libertà è intoccabile. Anche perché, come diceva, è assurdo mettere un oggetto sullo stesso piano della libertà. Quindi via queste due cose. Quindi aboliamo il fatto che lo Stato, per sanzionare un comportamento illegale, si appropri la libertà del trasgressore o della trasgressione. Questo è il dubbio. Partendo da questo concetto di non mettere più in mezzo la libertà, l'appropriazione da parte dello Stato della libertà, intanto bisogna mettere con questi occhiali, riguardare tutto l'assetto sociale. Perché scopriremo tante belle cose. Se affermiamo, come dice anche, sembra dire anche Luigi Manconi, che il sistema sanzionatorio deve continuare a esistere, ma non possiamo permettere che lo Stato si appropri della libertà, quindi della condizione umana nel suo essenza, no? Perché diventa schiavitù. Chi sta in carcere è a totale 24 ore al giorno in totale dipendenza di qualcuno, quindi è uno schiavo. Infatti si chiamano schiavi, è una riedizione della schiavitù la carcerazione, con questo sono tutti d'accordo, perlomeno i grandi scrittori. Bene, questa cosa va abolita, abbiamo abolito la schiavitù, anche questa schiavitù va abolita. Se però accettiamo questo principio, poi guardiamo con questi occhiali tutta la società. Per esempio, il lavoro salariato non è anch'esso appropriazione non di libertà ma di tempo di una persona. Una persona per campare oggi, se è nullatenente, non ha proprietà, deve vendersi in un posto di lavoro. Si vende a un padrone per ottenere un salario che gli permette di campare. Cioè dà una parte della propria vita a un'altra persona, chiamata padrone, proprietario, imprenditore, eccetera, in cambio di un salario. Anche questa è un'appropriazione di tempo. Se non volete di libertà, perché ha la libertà anche di dire no, io non lavoro, poi come campa non lo sappiamo, chiederà carità, andrà a rubare, cioè, però questa libertà rimane per chi sta fuori, no? Per cui non è la stessa cosa, può scegliere andare a lavorare o non andare a lavorare. Però anche il lavoro salariato rientra dentro l'appropriazione di qualcuno, in questo caso un privato, del tempo, non totale ovviamente, ma di una gran parte del tempo. Le 8 ore di lavoro, che poi con l'andare e tornare diventano 10, sono tempo della dimensione umana date in cambio di un salario a un padrone. Ecco, questa cosa deve essere messa in discussione, così come può essere messa in discussione anche l'attività collettiva delle persone. Le persone, i cittadini si organizzano, si auto-organizzano in un quartiere, in un posto dovunque, e propongono un'iniziativa per dire alcune cose, affermare alcune cose, per protestare, per affermare una cosa. Ecco, anche quell'attività va tutelata, non repressa anche lì, quindi togliendo la libertà. Togliere la libertà di manifestare, di protestare, di organizzarsi, noi sappiamo che in questo mondo attuale pieno di merci, quindi in questo mondo capitalistico pieno di merci, in alcuni posti, e sta avvenendo anche qui da noi, i lavoratori che producono merci, ai lavoratori che producono merci è vietato organizzarsi in sindacato. Quindi torniamo indietro di 200 anni. Ecco, anche quello è un togliere la libertà. Libertà ai lavoratori di dire: vabbè, io vengo a vendere la mia forza lavoro, però voglio organizzarmi con altri miei compagni di lavoro, e chiedere e rivendicare di queste cose: meno lavoro, meno orario, più salario. Questo è quello che serve. E poi ce la vediamo nella dialettica tra padroni e salariati. Questa cosa è vietata in molte parti, anche le ultime. Questo governo italiano, no? questo che abbiamo, sta operando per ridurre la libertà di scioperare, che è uno degli elementi di quel meccanismo che della vendita, della schiavitù, del lavoro salariato che è uno schiave. Cioè, il lavoratore salariato, se non ha la libertà di organizzarsi e di lottare, torna ad essere esattamente uno schiavo. Cioè, mi accontento di quello che mi dà il padrone, come lo schiavo si accontentava del ciotolo di minestra che gli dava il padrone e dell'abbaraccamento per dormire, e andava avanti così. Ecco, quindi se uno affronta questo dato che la sanzione non può mai costituire in privazione della libertà, e riaffronta il sistema sanzionatorio, che può essere economico di qualunque tipo, è chiaro che però è una bella lente per mettere in discussione tanti meccanismi di questa società. Però è giusto, appunto, quindi io partirei da questa, non individuerei adesso soltanto le alternative. Intanto, purtroppo, al di là dei titoli, possiamo dire aboliamo il carcere, distruggiamoli, buttiamoli via, però sappiamo che non è una cosa di mesi e nemmeno di pochi anni. Il superamento del carcere è in questa fase, ma non è una cosa di giorni. Quindi prendiamocela, soprattutto investiamo la gran parte delle persone. Noi diciamo la libertà non si tocca, non c'è nessuno che può toccare la libertà umana, è quella. Quindi levata quella, e la leviamo anche in altri settori della società, poi cominciamo a parlare di che cosa può essere un sistema sanzionatorio, cioè che cosa può andare a toccare. Per esempio, chiaramente sì, sicuramente l'attività a favore di, quella può essere un discorso, oppure le questioni economiche, la multa, la sanzione economica. Però questa ragionata non in funzione di, in assoluto, perché tutti sappiamo, siamo, diciamo, come dire, utenti della strada, c'è chi c'ha la macchina sfasciata derivata e c'ha due soldi in tasca, e c'è quello che c'ha i miliardi in tasca. Se fanno un divieto di sosta pagano la stessa multa. Questo non va bene, perché i 100 euro di multa, 100, quelli che sono 80 eccetera, non fanno male allo stesso modo ai due soggetti, no? A uno è un baffo, a quell'altro lo rovina. Quindi, come vedete, anche il sistema sanzionatorio va rivisto anche da questo punto di vista, però il quello economico può starci. Insomma, affrontare, partire da questo punto e non dare subito la risposta, perché che vuol dire? Che è una proposta di legge perché pensiamo che le istituzioni italiane siano in grado di mettere giù un sistema di leggi in grado di superare il carcere? Ovviamente no, questi anzi lo stanno creando sempre di più, quindi non è. Poi anche perché ci sarebbero i CIE e tutto sul carcere, è molto. Quando parliamo di carcere non parliamo solo dei 206 istituti, Regina Coeli, Re Bibbia, San Vittore, le nuove opere eccetera, ma di un sistema sociale che tende a schiacciare la libertà delle persone. Questo è il meccanismo. Io penso quindi che da qui si può arrivare. Prossimamente vedremo, entreremo più dentro a questo libro, anche ad altri, perché figura, c'è tutta una letteratura sull'abolizionismo molto molto interessante e molto vasta, che si è diffusa negli anni 60 e primi 70, poi si è interrotta chissà perché, anzi perché è facilmente comprensibile, perché appunto è venuta questa ondata forcaiola. Bene, noi siamo arrivati alla fine della trasmissione, e quindi non sono arrivate questa questa comunicazione delle madri dei 43 ragazzi e ragazze messicane scomparse, quindi sequestrate o speriamo di no uccise, comunque che erano venute a protestare per questa sparizione, per questa aggressione, per questa tremenda